Dice il babbo con la mamma, guarda che belli, che buoni gemelli. Lei lo guarda e poi si infiamma e gli risponde con furia così: ma che buoni, ma che belli, tre fratelli, rompicolli, e per giunta figli tuoi, che sono stanca dovere servì. Siamo fratelli, fratelli gemelli, più capricciosi dei riccioli belli, l'istitutrice guardiana e feroce, a sera e mattina facciamo gridare: Rudoletti, siate buoni, non toccate con le mani, ma noi siamo i padroncini, se rompiamo chi paga papà. Come soldati la guerra facciamo, contro il nemico l'assalto corriamo, le lampadine per bombe tiriamo, prodi guerrieri cantiamo così: cara mamma, non gridare, che la casa è nostra pure, e se tu ci vuoi picchiare, lo diremo stasera papà. Nel giardino del paese la bambinaia ci porta di sera le violette con le rose, non le facciamo nemmeno sbocciare. Se coi bimbi poi giochiamo, certo il gioco dura poco, rispettosi sempre siamo e più nessuno ci vuole giocare. Siamo fratelli, fratelli gemelli, più capricciosi dei riccioli belli, l'istitutrice guardiana e feroce, sera e mattina facciamo gridare: Rugoletti, siate buoni, non toccate con le mani, ma noi siamo i padroncini, se rompiamo chi paga papà. Come soldati la guerra facciamo, contro un nemico l'assalto corriamo, le lampadine per bombe tiriamo, prodi guerrieri cantiamo così: cara mamma, non gridare, che la casa è nostra pure, e se tu ci vuoi picchiare, lo diremo stasera papà. Fratelli gemelli, più capricciosi dei riccioli belli, l'istitutrice guardiana e feroce, sera e mattina facciamo gridare: Rugoletti, siate buoni, non toccate con le mani, ma noi siamo i padroncini, se rompiamo chi paga papà. Come soldati la guerra facciamo, contro un nemico l'assalto corriamo, le lampadine per bombe tiriamo, prodi guerrieri cantiamo così: cara mamma, non gridare, che la casa è nostra pure, e se tu ci vuoi picchiare, lo diremo stasera papà, lo diremo stasera papà.